Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. In primo piano il tema dell'immigrazione. Secondo il Frontex, nei primi quattro mesi del 2014 c'è stato un vertiginoso aumento di arrivi in Italia. Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere, ha segnalato oggi un forte aumento degli ingressi nell'Unione Europea di immigrati irregolari nei primi quattro mesi del 2014. 42.000 rispetto ai 12.000 dello stesso periodo del 2013. Il dato è il riflesso sia di un aumento dei controlli sia di un incremento dei flussi, ha spiegato qui a Bruxelles il vice direttore di Frontex, Gil Arias Fernandez. Il funzionario europeo ha detto di aspettarsi un ulteriore aumento nel corso dell'estate, quando la traversata del Mediterraneo è più facile. La metà degli arrivi rilevati da Frontex è stata registrata sulle coste meridionali del Mediterraneo, tendenzialmente in Italia. I dati giungono mentre l'ultimo drammatico naufragio di un barcone carico di persone alla volta dell'Italia ha provocato, oltre che emozione, anche polemiche tra Roma e Bruxelles. Da tempo l'Italia chiede maggiore collaborazione all'Europa per meglio affrontare l'arrivo di immigrati clandestini. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È un colloquio telefonico tra il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Cecilia Malmström, e il ministro degli interni italiano, Angelino Alfano, in tema di immigrazione, ha chiuso ogni polemica. Al ministro Alfano ho espresso la riconoscenza della Commissione Europea per l'eccellente lavoro che l'Italia sta facendo per assistere i migranti, salvare vite umane in mare. La lettera inviata il 14 aprile aveva il solo scopo di chiedere in che modo l'Europa può fornire ulteriore assistenza, di identificare e garantire al meglio risposte congiunte alle sfide immediate che ci attendono, sostiene sempre il commissario agli affari interni Malmström. Lo spreco dei fondi europei, avete sentito anche nella discussione, nella conferenza stampa del Premier Matteo Renzi. Abbiamo speso finora meno della metà di quelli che l'Italia poteva utilizzare, secondo il rapporto della Commissione europea, che adesso potrebbe tagliarli e darli ai paesi che invece ne fanno buon uso. Il quadro dell'utilizzo paese per paese dei fondi europei è finalmente completo. La Commissione europea ha chiuso il cerchio con i dati relativi a tutto il 2013 sulla quantità di soldi dei fondi europei per lo sviluppo regionale spesi dall'Italia in confronto con gli altri paesi dell'Unione europea. E la conferma è pesante. Siamo il peggior paese europeo a fare buon uso di queste risorse. Dopo di noi solo Romania e Croazia, ultima perché dei 225,4 milioni che poteva spendere non ha usato nemmeno un euro. Tra il 2007 e il 2013 l'Unione europea ha messo a disposizione dell'Italia poco più di 21 miliardi di euro in fondi per lo sviluppo economico, quelli che dovrebbero servire per interventi strategici come infrastrutture di trasporto, incentivi alle imprese innovative. Meno della metà sono serviti a questo scopo a fine periodo, cioè il 45,68%, gli altri inutilizzati. Secondo il Comitato delle Regioni è colpa della burocrazia, nelle regioni italiane non ci sono professionisti in grado di fare sistema tra pubblico e privato e di gestire progetti con i soldi di Bruxelles. E adesso che si fa? Nel 2014 dovrebbe iniziare la programmazione per usare i fondi europei nel periodo 2014-2020. E secondo il Comitato delle Regioni le regole per utilizzarli sono diventate ancora più complicate. E così, per spendere il 55% circa dei fondi che non siamo riusciti a spendere in 7 anni, abbiamo ancora solo 2 anni a disposizione. Si tratta di 11 miliardi e 407 milioni che diventano il doppio considerando il cofinanziamento nazionale, ma il rischio è che per la fretta si spendano male. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine, l'accordo di associazione tra Unione Europea e Georgia sarà firmato il 27 giugno a Bruxelles, lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Europeo Varron Puy durante una conferenza stampa a Tbilisi con il premier georgiano Irakli Garibashvili. La Georgia aveva prefirmato l'accordo lo scorso novembre come la Moldavia e quindi oggi intende formalizzare la sua piena adesione. Vi saluto qui Daniele Biacchessi, vi ricordo questa sera Europa Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.